ballare, c'è la voglia di ballare, tutti in fila col latinoamericano. Il gorilla balla il ritmo con i pugni sopra il petto, è il più bravo di Don Lurio il suo balletto. La giraffa con dolcezza se lo balla mai in altezza, la savana ormai la chiama Cuccarini. Il leone e la pantera si scatenano di sera, se l'orchestra fino a tardi suonerà. Nella giungla misteriosa questo ritmo è un'altra cosa, pure l'orso balla col babbuino. Se c'è il latino! Nella giungla c'è chi mangia come un lupo e chi si arrangia, chi fa i salti. Il più grosso tiene ritmo più non posso, segue i passi del nemico Topolino. Il serpente striscia lento per seguire il movimento, che è successo che il safari con Latino. L'avvoltoio vola basso, ha imparato bene il passo, fa il tantan con il suo battito di ali. E c'è pure il coccodrillo che stasera è un poco brillo, fra le canne si dà aria da mandrillo. Nella giungla strepitosa